Amici di Radio Italy, bentornati. Oggi ho l'onore di stare con il console italiano a Shanghai, il dottor Stefano Beltrame. Buongiorno. Il piacere è tutto mio, grazie per questa opportunità e saluto la comunità italiana di Shanghai. Signor console, il primo straniero a mettere piedi a Shanghai è stato un italiano, il gesuita Lazzaro Cattaneo, che arrivò nel 1608. Poi il suo collega, padre Francesco Brancati, che ha fondato la prima chiesa cattolica a metà del 600. Sono giusti questi dati? Che ne pensa? Beh, io naturalmente Shanghai è una città molto recente. In passato il porto più importante di questa zona della Cina era Yangzhou, e c'era la città di Hangzhou, che è descritta nel Milione di Marco Polo, quindi diciamo gli italiani un po' prima sono venuti. Ma è venuto Marco Polo? A Shanghai no, perché Shanghai non c'era. E Marco Polo ha vissuto 2 anni a Yangzhou ed ha vissuto ad Hangzhou, che descrive nel Milione. Cioè, certo. La città più bella del mondo. Quindi uno dice, ma insomma, andiamo a vederla, sta Hangzhou, come se è veramente così carina. È bellissima. Ma a Yangzhou c'era una comunità italiana nel 300, un altro italiano famoso, Odorico da Pordenone, e poi ci sono delle tombe italiane, c'è cioè la tomba di una donna del 1300, credo 40, e Caterina Iloni, che veniva da Genova e commerciava nella seta, quindi c'è una storia italiana. Però a Shanghai, la città è più recente, ma diciamo, mi piace pensare che il primo italiano di Shanghai sia in verità un cinese, che era la controparte erudita di Matteo Ricci, è un cinese che si chiama Xu Guanxi, okay. A cui la città di Shanghai dedica un parco e un quartiere che è Sujiawei. E nella tomba, nel parco c'è la tomba di quest'uomo con anche la statua di Matteo Ricci con il cannocchiale di Galileo in mano, quindi diciamo il legame con l'Italia è fortissimo. Però questo è il primo signore cinese che si è imparato il latino e l'italiano per parlare con Matteo Ricci. Insieme hanno tradotto molti libri, hanno tradotto Confucio in latino, ma anche Euclide in cinese, cosa pazzesca. Esatto. Il libro pubblicato nel 1607, quindi sono 400 anni buoni, che è l'inizio della scienza moderna in Cina. Naturalmente lui era originario di Shanghai, ma Shanghai non era ancora una città, quindi si sono conosciuti a Nanchino, la capitale del sud, e a Pechino, la capitale del nord. E questa famiglia Xu Guanxi si è convertita al cattolicesimo, hanno donato terre di famiglia dove è nata poi la chiesa dei gesuiti, Sant'Ignazio. Devo dire che è una figura nuova per me, non l'avevo mai sentita. Sì, diciamo. Ho letto qualcosa sul vostro sito, sul sito del consolato, sì. Però... Sì. E c'è la voce su Wikipedia che abbiamo fatto noi, su questa figura, perché nel XXI secolo, quando abbiamo capito l'importanza del dialogo di civiltà, uno deve vedere gli italiani che sono venuti in Cina, ma anche i cinesi che hanno accolto questi italiani. E questo Xu Guanxi è una figura straordinaria. E a proposito della lingua italiana, io sono anni che insegno l'italiano qui a Shanghai, forse sono stato uno dei primi, e vedo che ci sono tante scuole private che sono tutte nelle mani dei cinesi. Ma lo Stato italiano non ha intenzione di costruire qualcosa? Beh, lo Stato italiano purtroppo non ha i mezzi finanziari per sostenere un'operazione di questo tipo. Naturalmente qua a Shanghai c'è la scuola del sabato per i ragazzi italiani, la Gianni Rodari, che ha 120 studenti, che per fasce d'età studiano la lingua italiana, tra cui anche mia figlia. E comunque stiamo pensando con la comunità italiana di fare una vera scuola italiana. Bene. Iniziando le scuole materne con il metodo didattico del Reggio Children, che è una delle eccellenze italiane. Le scuole di Reggio Emilia sono state studiate da tutto il mondo, secondo Newsweek a un certo punto 20 anni fa era la miglior scuola al mondo per l'infanzia. Questo è il metodo che vorremmo adottare. C'era ieri qua una conferenza della presidentessa di Reggio Children, la dottoressa Rinaldi. E naturalmente noi vorremmo fare anche le elementari, le medie e in prospettiva il liceo, una vera scuola italiana. Alla grande allora, sì. Complimenti. Il problema come sempre è trovare i finanziamenti, però insomma, sono molto determinato e penso che ce la faremo. ma spero di non essere in pensione durante quel periodo. No, sono tempi storici e non biblici. Io in ogni intervista cerco di prendermi un lavoro. No, ma naturalmente la scuola italiana partirà dal corpo docente che c'è qua, di chi già fa questa opera meritoria, l'insegnamento dell'italiano. Anche perché, se posso dire, diciamo, molti dei lettori cinesi di lingua italiana, insomma, loro stessi forse studiare un po' di più non gli farebbe male. Ma certo. Senta, ma perché studia un italiano? L'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo. Secondo lei perché c'è tutto questo interesse per la nostra lingua? Beh, diciamo, perché noi siamo l'Italia. Cioè, l'Italia è quel paese che racchiude il 70% del patrimonio culturale dell'umanità secondo l'UNESCO, e noi italiani sappiamo che è veramente vero. Io per esempio vengo da Verona, che nel suo piccolo è patrimonio comune dell'umanità, diciamo, no? Certo. Con monumenti del secondo secolo avanti Cristo che uno vede per strada. La cultura italiana è fortissima. Poi qua in Cina hanno un grande rispetto appunto per culture così profonde come la loro, l'impero romano, il rinascimento, l'essenza della cultura italiana. Del resto, come si diceva, ai tempi Matteo Ricci, Cattaneo, anche Martini che stavano giù, sono stati gli italiani i primi a fare la traslitterazione del carattere cinese al latino, quindi una forza culturale indiscutibile. Indiscutibile. Senta, lei che viene da Verona, come vede l'architettura qui a Shanghai? E sono due città completamente diverse. Cosa porterebbe da Shanghai a Verona e cosa da Verona a Shanghai? Beh, la Cina è esplosa, cioè quello che fa più impressione per uno straniero. Siamo stati l'altro giorno con il vice ministro Calenda in comune e c'è questa time lapse di Pudong, dove si vede che 30 anni fa non c'era nulla, 25 anni fa c'era il grattacielo, diciamo la Pearl Tower, la siringa, diciamo, e adesso c'è una specie di Manhattan. La città ha avuto un'esplosione urbanistica incredibile, tuttora in corso. Quello che è rimasto di unico è il suo fiume ancora, il Huang Pujian, quello è rimasto ancora. Quando lo faranno diventare blu? Sì, non lo so, faranno la fabbrica di colori. Io penso che ci riusciranno. Come i tedeschi sul Reno. Ma Verona invece è una città che orgogliosamente, come tutta l'Italia, difende i suoi antichi monumenti. L'arena di Verona è un'arena romana che ancora funziona. E quindi sono grosse differenze di impostazione. Credo che a Shanghai, dove peraltro lavorano una ventina di studi di architetti italiani, anche di buon livello, la qualità degli edifici deve migliorare. Questi grattacieli che noi vediamo sono sfavillanti, un po' come Los Angeles, ma in realtà la qualità italiana nella struttura degli edifici ancora deve venire. È naturale che sia così, perché se le case sono esplose e aumentate in volume, in dimensione, in tempi recenti, per avere la cultura dell'arredamento, delle rifiniture che abbiamo noi affinata nei secoli ci vorrà un po' di tempo, ma credo che, insomma, ci saranno molti punti in comune. Benissimo. Verona, non molto lontano da Verona c'è Milano e fra poco scopperà per l'Expo. Quali sono i preparativi? Questo è un legame diretto tra Shanghai e l'Italia. Shanghai nel 2010 ha ospitato l'ultimo Expo e quello successivo appunto nel 2015, quest'anno si tiene a Milano. Bene. Le città sono gemellate fin dagli anni 70. Naturalmente sono cose anche un po' diverse, perché Shanghai ha avuto 75 milioni di visitatori. Io non credo che Milano sia in grado di gestire l'Expo un traffico del genere. In realtà in Europa il target è tra i 15 e i 20 milioni. Pochi ma buoni, euro. Insomma, siamo distanti. Noi per l'Expo abbiamo fatto tantissimi eventi. Il consolato in particolare ha raddoppiato la struttura per la emissione dei visti. L'anno scorso abbiamo emesso 111.000 visti nel 2014, che diciamo è un lavoro sostanziale, se si rende conto dei numeri. E quest'anno noi possiamo serenamente raddoppiare tale numero e speriamo che molti cinesi vengano a visitare l'Expo di Milano e il resto del paese. Sono più snelle le procedure per i visti? Ma purtroppo la normativa è complessa, perché ha richieste di sicurezza che sono anche concepite per altre parti del mondo, non necessariamente per la Cina, e sono le stesse per tutti i paesi europei, quindi l'efficacia del servizio è data dalle risorse che uno ci investe. Io devo dire con grande orgoglio che credo che insomma con i francesi siamo il top qua a Shanghai, non ci sono i visti, li abbiamo in 36 ore. Wow, complimenti. Senta, signor console, qual è l'eredità che ha lasciato l'Italia all'Expo di Shanghai? Beh, noi abbiamo questo padiglione italiano che è stato per alcuni anni rigenerato in museo italiano. Purtroppo questo non sarà ancora una cosa che durerà nel tempo, perché tutta la zona sarà riconvertita in uffici, quindi anche il nostro padiglione finirà per essere utilizzato in maniera più, diciamo, al passo con le necessità economiche. E l'eredità è la scoperta da parte dei cinesi del resto del mondo. A Shanghai la concezione dell'Expo era un po' per il pubblico cinese venire a vedere qua i padiglioni del resto del mondo come se uno andasse all'estero. Nel frattempo, questi 5 anni, la Cina è cresciuta tantissimo, ora è pronta ad andare lei stessa all'estero. Quindi, mentre prima l'esposizione universale, come nell'Ottocento, serviva a far vedere ai locali il resto del mondo, adesso il cinese ha la valigia e comincia a viaggiare lui per il resto del mondo. Certo. Gli italiani, parlavamo degli italiani, ma quanti italiani ci sono a Shanghai? C'è un numero? Sì, noi siamo a Shanghai e tutta la Cina orientale, quindi anche lo Jiangsu, lo Zhejiang, siamo registrati all'AIRE, cioè l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, in 3.000. 3.000. Però forse siamo un po' di più. Calcoliamo che quelli non registrati, perché qua su base temporanea, studenti, uomini d'affari che stanno nei periodi ma non fissi, sino altrettanti. Quindi noi ragioniamo sulle 6.000 persone, quei 3.000 residenti fissi. Ma chi deve iscriversi all'AIRE? A norma di legge, chi cambia residenza entro 6 mesi dovrebbe, come in Italia, se io mi trasferisco da Verona a Milano, devo cambiare la residenza, e questo cambio di residenza all'estero si chiama AIRE. L'AIRE. Che è come il comune degli italiani all'estero, diciamo così. E quindi se uno sta qua fisso, entro 6 mesi dovrebbe fare il cambio di residenza. Certo. Ma Shanghai è una città tranquilla, gli italiani, i turisti che vengono a Shanghai, a cosa devono fare attenzione? Ci sono truffe? Sì, purtroppo qualche problemuccio c'è. E qua, diciamo, si viene spesso invitati a prendere il tè in casa da te, oppure ad andare a vedere chissà quali mirabilanti occasioni di orologi Rolex più o meno veri, magliette di marca più o meno vere, e poi ci si trova con dei conti sproporzionati alla percezione del servizio ricevuto. Però a quel punto è troppo tardi. Troppo tardi, un po' come Napoli, ma un po' più tranquilla. Sì, diciamo, la connessione viene fatta da molti. Senta, non accettare di andare a bere del tè dagli sconosciuti. Non bere, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. Sì, poi diciamo, i falsi non vanno comprati. Certo, ormai è anche difficile trovare i falsi, bisogna proprio darsi da fare per trovarli. Dove c'era il mercato dei fake market, adesso sono sorti questi grandi magazzini. Io ormai sono storia, quindi sono più di 10 anni che vivo. E qual era la sua materia preferita da quando era al liceo? Io non ero un grande studente liceo, però forse la storia. La storia? Infatti la sento molto molto, se mi posso permettere, sulle date, io le date però non me le sono mai ricordate. E poi le volevo chiedere, la presenza, io sono del sud Italia, qual è la presenza del sud Italia qui a Shanghai? Beh, stiamo cercando di costituire l'associazione dei pugliesi, come c'è l'associazione dei veneti in Cina, il Fugolar Furlando e il Friulano. Uh-huh. Stiamo cercando di stimolare la nascita anche dei pugliesi. Ci sono moltissimi siciliani, ci sono moltissimi sardi, però un po' meno strutturati, insomma l'Italia è ben rappresentata. Certo. Quanto è presente il consolato in rete attraverso WeChat, Weibo, Facebook? Grazie, questa è una cosa a cui tengo molto, grazie della domanda. Noi ogni settimana facciamo per la comunità un WeChat settimanale con vari articoli, la presentazione degli eventi italiani della settimana entrante a venire, questi appuntamenti italiani, Taz Italy, Taz Shanghai, che devo dire ha avuto un riscontro molto positivo. E facciamo poi approfondimenti e la post-produzione degli eventi italiani settimana precedente. Per esempio, questa settimana che si chiude, abbiamo avuto la presentazione della Biennale Arte di Venezia, questo è stato un evento secondo me molto interessante, faremo un articolo che approfondisce la presenza italiana su questa città. Il WeChat, come anche gli appuntamenti, sono aperti alla comunità. Se per esempio chi insegna italiano volesse fare un articolo dove si studia l'italiano a Shanghai, noi saremmo ben lieti di pubblicarlo. Siamo anche su Weibo, abbiamo un sito ufficiale consolato. Devo dire, purtroppo qua si fa fatica a seguire tutte le piattaforme tecnologiche. Da un punto di vista amministrativo, le comunicazioni ufficiali sono solo quelle del sito ufficiale, non su WeChat, non su Weibo. E abbiamo anche Facebook, che naturalmente è più rivolto all'Italia che alla Cina, perché qua non è agevole connettersi, ma in Italia WeChat non è ancora molto diffuso, quindi manteniamo entrambi i canali. Ma quindi WeChat è il nostro cavallo di battaglia a Shanghai, WeChat, perché è bilingue e soprattutto rivolto ai cinesi e alla comunità italiana. Quindi diciamo che i nostri ascoltatori possono partire dal sito del consolato, sì, per poi fare la scansione del codice QR, sì, e quindi possono, sì, arrivare al vostro, sì, sì, WeChat. O da Weibo, fare la scansione del codice QR, e lì c'è questo bollettino settimanale che viene declinato anche su Weibo in diretta. Va benissimo, io la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, sono davvero emozionato e sto tremando, non me l'aspettavo. Che... il consolato è la casa di tutti gli italiani. La ringrazio, è stato davvero un grande onore. Se vuole vuole fare un ultimo saluto agli italiani o chi ci, sì, i cinesi che ci ascoltano. Domani è il 21 di marzo, primo giorno di primavera, Capodanno del calendario persiano. Vorrei fare a tutti gli auguri per un buon anno persiano, che è anche quello dell'oroscopo, diciamo. Auguri di primavera. Auguri anche a lei. Grazie. Grazie. Grazie. Gentili ascoltatori, la puntata di Radio Italy con ospite il console italiano Stefano Beltrame finisce qui. Grazie per l'ascolto. Se volete potete mandare un'email a radioitaly@outlook.com. Ciao da Rocco Carbonaro. Ciao ciao.